известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Please be seated. Barack Obama nel quinto appuntamento con gli americani ieri sera prime time televisivo. Six months ago, I took office amid the worst recession in half a century. Sei mesi fa ho cominciato il mio lavoro nella recessione più profonda dell'ultimo mezzo secolo. As a result of the actions we took in those first weeks, we've been able to pull our economy back from the brink. Eravamo sull'orlo del baratro e grazie alla nostra azione siamo riusciti a rientrare in vista di una ripartenza. Ma insomma, noi abbiamo ormai capito, no? A forza di osservare anche qui da Jefferson giorno per giorno il lavoro dell'amministrazione americana, tanto più di quella di Barack Obama, ormai in carica appunto da circa mezzo anno, abbiamo capito come funziona. In questi giorni, in queste ore, sono in giro per il mondo Joe Biden, vicepresidente, e il segretario di Stato Hillary Clinton. Stanno approfondendo, stanno esaminando le principali questioni di politica internazionale per conto dell'amministrazione, per conto della Casa Bianca. Stanno lavorando duramente, seriamente e con molta intensità. Il rientro in scena di Hillary Clinton è una delle notizie di questa settimana, perché il presidente, no, in questo su e giù, avanti e indietro, è tornato a concentrarsi sulle cose di politica interna, sulle urgenze e sulle priorità di politica interna. Ieri è andato in televisione a parlare agli americani e a rispondere alle domande dei reporter, perché sembrava a lui e soprattutto al suo staff indispensabile che lo facesse nel pieno del dibattito, ma anche delle polemiche e anche degli attacchi attinenti al suo progetto di riforma della sanità. È stata una apparizione del presidente americano che definiremo a due velocità. La parte principale del suo discorso, quello per l'appunto dedicato alla riforma del sistema sanitario americano, che Barack Obama ha annunciato, ha ribadito, arriverà entro il 2009. Questa è una promessa importante e impegnativa. Questa parte del discorso è apparsa sinceramente molto studiata, molto preparata, col bilancino dose per dose, equilibristica, certamente assai freddina, incapace, no? Di fare però ulteriore chiarezza, di offrire dati certi, di rispondere alla domanda essenziale che gli americani stanno ponendo e che i politici avversari di Obama stanno reiterando, ovvero chi paga e quanto. Ci sono stati piuttosto evocazioni, no, quasi oscuri vaticini da parte del presidente. Ha detto che non siamo qui per giocare, il problema non può attendere, la riforma della sanità è essenziale per il salvataggio dell'economia, senza questa riforma si rischia di sbancare il bilancio federale, ha detto ancora Obama parlando dei vertiginosi costi degli aiuti sanitari agli anziani attraverso il sistema che si chiama Medicare e ai poveri attraverso il sistema Medicaid. Ha detto ancora Obama: il prezzo del non far nulla è troppo alto, bisogna agire, bisogna intervenire. Non molto è stato il convincimento raggiunto nei media americani, sono rimasti piuttosto scettici a questa parte a questo intervento di Obama, e hanno anche notato che in un certo senso questa è una defiance di Obama, perché lui questa strategia, questa tecnica di parlare in grande nei momenti più difficili del suo percorso l'ha adottata più volte. Vi ricordo un caso per tutti, ormai risalente a parecchio tempo fa, al marzo del 2008, il suo discorso sulla razza, allorché venne attaccato personalmente sui suoi legami con il reverendo Jeremiah Wright. E in questo caso lui ci ha riprovato, ha provato a traslare in un certo senso un problema ormai chiaramente politico, di dibattito politico, di opposizione, anche di opportunismi da parte certamente del partito repubblicano, che ormai vogliono farlo a pezzi, questa è l'espressione usata dallo stesso Obama, vogliono giocare alla politica, questa è l'accusa che ha rivolto agli avversari, ma anche dai conservatori democratici, conservatori nel senso soprattutto fiscale, che risultano in questo momento i suoi avversari più pericolosi, perché naturalmente interni al suo partito. Però questa volta, in questo suo tentativo ancora una volta di assolutizzare il discorso, di renderlo al di là, oltre la politica, di renderlo una questione etica, di renderlo soprattutto una questione americana nel senso più profondo e collettivo e collettivizzante del termine, no? Coinvolgiamoci tutti, anima e corpo, nella soluzione dei nostri problemi, solo così potremo superarli e trionfare, rilanciare il paese. A Barack Obama è venuto un po' il fiato corto, sarà che i suoi discorsi veramente ormai devono stare molto attenti a muoversi come in una cristalleria, ma non credo che in questa occasione l'effetto sia stato raggiunto. Di fatto però Barack Obama è ben vivo e pronto a lottare sulla questione della sanità, anche perché ormai è evidente che questa è la madre di tutte le battaglie politiche per quello che riguarda la politica, lo scenario domestico, lo scenario interno, e quindi prima di arrivare a dei responsi di qualche genere conviene attendere ancora qualche giorno, anche se, come vi ripeto, le recensioni da parte della stampa oggi non sono tenere. The Politico, per esempio, il famoso giornale internet di analisi delle cose di Washington, dice, fronteggiando la sua prova più dura, questa volta Obama ha scelto di non sembrare grandioso come in altri casi, ma è rimasto su una misura più grande, non ha, più piccola, più minuscola, non ha seguito il suo adagio, un adagio interessante su cui toccherebbe riflettere, when in trouble go big, quando sei nei guai pensa in grande, dimostrati, manifestati in grande stile, vola sopra il temporale, che poi è una cosa che però paradossalmente Obama, sempre nella stessa serata, è riuscito a fare quando è saltato fuori un altro argomento, certamente meno centrale, meno marginale, forse anche meno sentito dall'opinione pubblica, dagli stessi media e dalla politica americana, un argomento anche soggetto spesso ad atteggiamenti di comodo e da sempre evitato, se non proprio di fronte a stato di necessità, dallo stesso Obama. L'argomento in questione è la razza. Sapete che in queste ultime ore ci sono stati incidenti razziali anche in Texas per l'ennesimo caso, sembra, di ingiustizia commessa nei confronti di un ragazzo di colore che è stato ucciso da due coetanei bianchi, e il processo non sembra essere stato improntato alla massima regolarità, e ci sono in quel Paris, Texas, che ricordiamo per il film di Wenders, confronti anche fisici tra esponenti del Ku Klux Klan e Pantere Nere, riemerse un po' dal passato, ma in realtà qui c'è un'altra piccola grande storia che è andata in scena e che ha fatto parecchio effetto, soprattutto al momento che lo stesso Barack Obama se ne è impossessato, ci ha messo il piede sopra e ne ha voluto parlare. Capita insomma che questo professore universitario, grande accademico di Harvard, amico personale di Barack Obama, che si chiama Henry Gates, torna a casa, non riesce ad aprire la serratura, insomma si mette lì un po' a bisticciare con la serratura della sua porta di casa, qualcuno lo vede, pensa in buona coscienza, o magari non proprio in coscienza limpidissima, che stia scassinando la porta. Tutto ciò avviene nel quartiere di Cambridge a Boston, dove c'è Harvard, un quartiere molto liberal, molto abitato da progressisti, la gente apparentemente illuminata. Comunque chiamano la polizia arriva, non dà retta minimamente al professor Gates, lo arresta, gli fa fare 4 ore di residenza dietro le sbarre, viene fotografato come un criminale, vengono fatte le foto di rito, viene trattato in maniera piuttosto brusca, anche quando ormai è proprio chiaro che quella è casa sua, lo sta dimostrando, voglio entrare a casa mia. Barack Obama ieri si è impossessato di questo argomento e curiosamente proprio su quel tema che aveva sempre dribblato col terrore di venirne ingoiato, ovvero il tema della razza, conferenza, ha dato il suo meglio nella conferenza stampa. Ascoltiamo un attimo. Skip Gates is a friend, so I may be a little biased here. I don't know all the facts. What's been reported though is that the guy forgot his keys, jimmied his way to get into the house. There was a report called into the police station that there might be a burglary taking place. Cioè, insomma, sembra proprio che Gates si sia dimenticato le chiavi, e, insomma, si sia aperto la strada dentro casa. But let's say my old house in Chicago. Here I'd get shot. E i poliziotti sono arrivati. Ora dice, non è che questo capita a Boston e deve sorprendere, perché se fosse capitato nella mia Chicago mi avrebbero direttamente sparato, dice, facendo ridere i giornalisti. Però poi ha detto anche delle altre cose serie. Ha detto gli agenti hanno agito in modo stupido ed è un fatto che negli Stati Uniti gli afroamericani e anche gli ispanici vengano arrestati in un numero sproporzionatamente alto rispetto ai bianchi. Beh, questo è un vero statement, una vera presa di posizione in una occasione così ufficiale come una conferenza in prime time televisivo da parte del presidente, che forse per la prima volta, no, all'altezza dei sei mesi di residenza alla Casa Bianca, dopo tanta cura, attenzione nel non arroventare la questione, per la prima volta ha detto agli americani placidamente, così mezzi addormentati sul divano di casa. Ma insomma, l'avete fatto, vi ringrazio, ma è bene che vi rendiate conto, tutto sommato, che alla Casa Bianca in questo momento c'è un nero, c'è un afroamericano, e che questo è un cambiamento, come abbiamo tanto evocato, ma alla fine è anche un fatto che dà luogo a una voce che da adesso in poi comincia a parlare su alcune disfunzioni del nostro sistema nazionale. Pare che il professor Gates, quando ha visto gli agenti arrivare davanti a casa sua, ha capito che non cercavano qualcun altro, cercavano proprio lui, abbia dato in escandescenze. Pare anche che abbia pronunciato la fatidica frase: lei non sa, voi non sapete chi io sia, insomma sono un luminare di Harvard. Gli agenti lo hanno accusato di condotta disordinata, in sostanza si è incavolato come una bestia, e pare, cara Milano, non voleva dovesse essere portato via dalla sua casa di lui, che era proprio sua, ha detto: ma non aveva tutti i tonti, questa è casa mia, mi state accusando di aver fatto irruzione in casa mia. Loro, come fanno gli agenti americani quando la procedura si è avviata, l'hanno portata a casa. Un amico lo è andato a liberare, diciamo così, dopo diverse ore. È stata pagata una cauzione della bella cifra di $40. L'amico, che è un sociologo, anche lui universitario di Harvard, si chiama Lawrence Bobo, ha dichiarato, però con tono seriamente scandalizzato, veramente sconvolto: è incredibile, una umiliazione e una violazione di ogni diritto che pensavamo ci fosse garantito. Forse anche per l'impatto emotivo di questa storia, no? Nel tanto democratico Massachusetts, nella progressista Boston, nella culla della cultura di Cambridge, a due passi da Harvard, dove peraltro ha studiato, Barack Obama si è sentito in dovere di intervenire, e almeno questa parte della serata l'ha saputa gestire con maestria. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. Eccoci, notizia. A proposito, chiederai danni il professore? Sì, sicuramente diciamo, sì, ma credo che comunque senza conseguenze, però credo che il suo presidente gli abbia dato discreta soddisfazione. Allora, visto che stiamo parlando anche di liberal, o comunque insomma di aperture al mondo e alle problematiche del presente, parliamo della Giordania, che spesso viene indicato come uno dei paesi arabi più illuminati, più avanzati, più progressisti per certi versi, con tutte naturalmente le cautele, visto l'ambito di cui stiamo parlando. Ebbene, i giordani, almeno 200 tra studenti universitari e attivisti, oggi sono scesi in piazza a favore dei fratelli uiguri. Quindi ci trasferiamo nel lontano Xinjiang, questa estrema provincia dell'ovest della Cina, dove c'è una fortissima minoranza musulmana, quasi la metà della popolazione. Dove le notizie, come al solito, sono sparite dopo le prime pagine. Si sono dissolte dopo, certo, una settimana di prime o seconde pagine dei giornali. Certo. C'è stata una recrudescenza degli scontri, certo, dell'instabilità nella regione nelle ultime settimane. Ci sono stati anche purtroppo decine di morti. Centinaia. Rimane il mistero per come siano andati effettivamente i fatti tra Han e musulmani. Comunque oggi c'è stata una protesta vivace ma pacifica di studenti e attivisti giordani ad Amman davanti all'ambasciata cinese. Quindi hanno scandito slogan a favore della comunità uigura musulmana dello Xinjiang. Governor Schwarzenegger, Arnie, Terminator, chiamatelo come vi pare, ai californiani piace chiamarlo El Stiffo. Insomma, è un nomignolo piuttosto curioso, quello che si dà da fare, il raddrizzatore, non so come dire, ecco, raddrizzatore. Sapete, governa uno Stato che è al tempo stesso il paradiso e l'inferno, no? La terra delle mille promesse, ma anche dei debiti ipermiliardari proprio nella gestione, nel bilancio dello Stato. Lui cerca di interpretare il suo ruolo mettendoci qualcosa anche della sua personalità, della sua capacità di essere in fondo un personaggio dello spettacolo, e ne ha fatta una delle sue, ovvero per presentare ai suoi concittadini dello Stato della California la necessità di tagliare il budget, insomma di ridurre la spesa dello Stato della California. Si è fatto vedere, è apparso in televisione con in mano, rivolgendosi ai californiani, con in mano un enorme coltello, una specie di versione gigantesca di un coltello a serramanico, cosa che naturalmente ha fatto letteralmente, no, ha agghiacciato proprio i californiani, i politicamente corretti e quant'altro. Sentite un po'. Holding a giant knife with a smirk on his face, Governor Schwarzenegger jokes about autographing state cars slated for the auction block as a way to raise money for cash-strapped California. We talked about making some cuts in the budget, getting rid of some of the state cars, and then all of a sudden you come up with the great ideas. Why not just sign the car since you're a celebrity governor? Questo è il meraviglioso, neanche Mel Brooks saprebbe fare di meglio, il meraviglioso accento tedesco di Arnold Schwarzenegger, nel quale dice: voi mi chiedete di raddrizzare la barca, ma guardate che qui la barca si raddrizza solo se tutti insieme cominciamo a fare delle rinunce. Di fronte alle critiche per la violenza, così l'impressione di questa apparizione con il coltellone, lui ha detto: guardate che io non mi diverto a fare questi tagli, è solo che sono uno che conosce lo spettacolo e ho voluto metterci, come dire, un po' di condimento anche ironico. Cercate di avere anche voi un po' di umorismo, perché tanto tragedia per tragedia, no? Facciamoci almeno sopra una risata. Varsi. E io invece vi propongo una notizia pizzicata sulla versione online di Haaretz, che è uno dei più importanti giornali israeliani, con una versione in inglese molto popolare, soprattutto per chi non conosce l'ebraico e soprattutto non vive in Israele, perché è una notizia che mette insieme una delle pratiche più antiche, più sacre per gli ebrei, non solo per chi vive in Israele, cioè la preghiera al muro del pianto, e le moderne tecnologie, perché da adesso si potrà anche pregare al muro del pianto via Twitter. Quindi parliamo di uno dei fenomeni tecnologici del momento, l'attrazione, insomma, in quell'infinita galassia. Uno scandalo, vogliamo dire. Dei social network. Pregare via Twitter. Io non mi espongo, però riferisco che c'è un sito che si chiama tweetyyourprayers.info, nel quale si può depositare, si può spedire via mail, via Twitter a questo punto, un messaggio. Sapete che i caratteri consentiti sono 140 con la propria preghiera. Poi loro si prendono la briga di andare al muro del pianto e depositare nel solco delle pietre il bigliettino con la preghiera. Quindi chi non può andare fisicamente e vendono pubblicità sul vendono sito, vendono, e naturalmente c'è subito il mercimonio dietro a questa pratica. Secondo me gli costerà caro dal punto di vista della vita eterna questa iniziativa. Ultima notizia volante: Joe Biden è in giro per il mondo. Questo, come sapete, è interessante. In Georgia, dove sta? Dunque, le ultime dichiarazioni le ha fatte in Georgia e Ucraina. Sì, è interessante dal punto di vista del suo attivismo, la sua voglia di partecipare. Un po' pericoloso per le cose che dice. Ieri ha parlato della guerra in Medio Oriente e ha fatto, come dire, si è esposto. Ha detto: vale gli sforzi. Questa guerra vale gli sforzi che stiamo compiendo e i sacrifici di cui soffriamo. Questo è il posto dove Al-Qaeda ha lanciato gli attacchi alle Torri Gemelle, all'Europa, dall'Afghanistan e dal Pakistan. Poi ha lodato l'impegno delle truppe, anche di quelle britanniche, che ha detto che sono fra le meglio addestrate del mondo. Ma insomma, sentire dire tutto ciò da Joe Biden, democratico, progressista, ai tempi di Bush, tutt'altro, come dire, che disponibile a sostenere lo sforzo in Medio Oriente, fa un certo effetto. Del resto si sa, quando i democratici poi vanno nella Casa Bianca non mettono il tappo al fucile. A tra poco. Secondhand crystal ball, I will trust my future to you. Vi avevamo anticipato già ieri che nella puntata di oggi saremmo tornati a parlare di Honduras con una fonte delle informazioni, delle angolazioni diverse riguardo agli eventi in questo piccolo stato del Centro America, che ormai da fine giugno vive una situazione politica estremamente instabile e anche ad alto rischio. Ma prima di passare a parlare con il nostro ospite, vi anticipo le ultime notizie, che sono di grande interesse e di un certo peso, perché precludono a una modifica degli scenari a poche ore da qua, insomma, perché in sostanza Manuel Zelaya, il presidente che è stato estromesso dai golpisti, sembrerebbe ormai pronto alla prova di forza. E per rientrare a Tegucigalpa in Honduras, si è dichiarato intenzionato nelle prossime ore a provare a tornare nel paese dal Nicaragua dopo che sarebbe fallito il piano di mediazione della crisi honduregna gestito dal presidente costaricano Oscar Arias. Nel frattempo anche i rappresentanti di Roberto Micheletti, il governatore, il presidente pro tempore dell'Honduras dopo il golfe, hanno bocciato il piano di mediazione di Arias. Zelaya ha dichiarato alla rete TV Telesur che oggi lascerà Managua per trasferirsi in un'area del Nicaragua a ridosso con l'Honduras. L'idea, dice testuali parole Zelaya, l'idea è parlare con la gente, attraversare è un diritto. Il presidente, io sono il presidente deposto, in quanto cittadino nessuno può negarmi questo diritto, lì c'è la mia famiglia e del resto io ho un mandato del popolo per governare. Poi ha evocato ancora naturalmente il sostegno della comunità internazionale e in particolare degli Stati Uniti d'America. Vi ricordo che Hillary Clinton non più tardi di pochissimi giorni or sono ha avuto un colloquio con Micheletti, un colloquio molto duro, molto fermo, in cui ha ribadito la necessità di un immediato ritorno all'ordine nello stato dell'Honduras, cosa che per ora non si è concretizzata. Abbiamo dunque in linea un italiano che vive in Honduras da diverso tempo, si chiama Osvaldo, è consulente di una grossa azienda internazionale che opera in questo paese. Sappiamo che nel corso dell'ultimo mese non ha vissuto in prima persona situazioni di reale pericolo, però ha osservato, se me la passate, con occhi italiani tutto ciò che stava accadendo e che non è facile comprendere naturalmente guardando da qua, raccogliendo le notizie per come arrivano. E allora oggi abbiamo scelto di interpellarlo per avere proprio dei pareri in prima persona che ci possono anche aiutare a decifrare questa situazione. Io ringrazio Osvaldo di questa presenza e lo saluto. Buon pomeriggio, Osvaldo. Buon pomeriggio a voi. Allora, puoi darci, tenendo conto proprio dei parametri, come dire, di chi ti sta ascoltando, no? Parametri italiani, insomma, puoi darci un punto di vista, secondo quello che hai visto, secondo ciò che puoi giudicare della situazione, no? Questa frizione tra due poli che si è venuta a creare è la rappresentazione all'interno della logica, della politica dell'Honduras, di che cosa? Cioè, che cos'è che in questo momento, secondo te, si sta scontrando nella nazione che ti ospita? Dunque, c'è da premettere che è un paese che l'Italia in realtà non conosce molto bene, a prescindere, certo, insomma, degli interessi turistici, però sappiamo molto poco della sua storia, che solitamente aiuta ad interpretare, a decifrare anche quello che sta avvenendo. Come aveva già anticipato ieri, insomma, la dichiarazione di San José in qualche modo si è arenata, certo. Il governo di Micheletti o meglio la commissione per conto del governo Micheletti ha deciso di in qualche modo di sottoporre all'attenzione dei poteri istituzionali del paese la stessa dichiarazione, quindi non prendendo alcuna posizione. Potrebbe essere un chiaro strumento o sistema per poter prendere tempo in questo senso. Mm-hmm. In questo momento io ritengo che quello che è avvenuto è difficilmente anche comprensibile all'estero e anche qui in Honduras si tratta di... Ma per esempio, Osvaldo, ci sono i buoni e i cattivi, nel senso c'è un progetto democratico e un progetto antidemocratico che si stanno scontrando, o magari due logiche proprio di approccio all'appartenenza alla comunità internazionale e quant'altro da parte dell'Honduras che si fronteggiano nelle personalità di Micheletti e di Zelaya? Ma non direi che si tratta di buoni e cattivi, qui in realtà secondo me si tratta di uno scontro tra centri di potere, di interesse politico e in qualche modo anche economico. Non dimentichiamo che la classe politica di questo paese più o meno di politico più o meno coincide con quello che è la classe economica. Mi sembra che il popolo, la gente che viene mossa dalle due parti, non mi sento di definirli buoni e cattivi, così come è stato già etichettato subito dopo il 28 di giugno. C'è un solo dato di fatto alla fine, che chi in qualche modo sta soffrendo più di tutti è il popolo stesso, quindi forse lontano da quelli che sono gli interessi politici ed economici, a mio avviso. Questa insomma è una mia interpretazione personale, per cui se prima c'erano famiglie in stato di indigenza, al momento non vedo grandi cambiamenti. Quindi non lo so, insomma, questa è la considerazione più amara che posso fare sulla situazione, perché va a attaccare un po' quelli che sono la gente che vive tutti i giorni, insomma. Ecco, c'è una reale partecipazione popolare a questa gravissima crisi politica? C'è una partecipazione popolare su entrambi i fronti, sì, assolutamente sì. Ieri appunto in Fiat Tegucigalpa ci sono state manifestazioni da entrambi i lati, chiaramente quasi accompagnando la dichiarazione di San José. Devo dire da entrambi i lati il paese direi che è enormemente diviso tra chi sostiene il Zelaya e chi sostiene il governo attuale de facto di Micheletti. Ecco, ma essere sostenute cosa sono? Soprattutto le personalità di questi due uomini politici, o c'è una piattaforma programmatica, politica, a contrasto l'una con l'altra, che vengono di volta in volta sostenute dalla partecipazione popolare? Ma devo dire che il movimento di Pro Zelaya è presente fortemente, sono presenti fortemente tutti i sindacati qui del paese. Certo. Ha una connotazione che si può tranquillamente definire di sinistra, centrosinistra, benché il concetto di sinistra e destra è un po' diverso rispetto a alla concezione di destra e sinistra che noi abbiamo in Italia, quindi anche per questo è molto difficile dire sono tutti di sinistra o sono tutti di destra. È comunque un destra-sinistra latino, no? Vicino all'approccio di Chavez, sì, di Castro. Diciamo che è un po' sì, l'approccio latino, per cui qui è anche facile, è molto normale in Sud America, in America Latina, che anche la Chiesa si schieri in qualche modo, nel senso che prende una posizione, forse partecipi alla vita, non tanto alla vita politica come politico, però che dica la sua anche su determinati contesti. Ma questo è un paradigma che si ripete in tutto il Centro America, con grandi c'è un grande passato insomma storico della presenza della Chiesa in America Latina. Senti, dal 28 giugno, da quando è cominciata questa emergenza, voi italiani, so che c'è una comunità di circa un migliaio di italiani in Honduras, che vita conducete? Quanto è cambiato il quotidiano, no? la vita di tutti i giorni? Sì, ma devo dire che per gli internazionali fino a questo momento non ci sono stati particolari problemi, nel senso che non siamo obiettivi sensibili, se si può dire così. È cambiata la vita nel senso che con il coprifuoco chiaramente sono limitati i movimenti durante le ore di coprifuoco, però devo dire che tutto sommato insomma si continua a svolgere la propria vita. C'è questo, si vive un po'. Sono rimasti tutti gli italiani, no? Non si è mosso praticamente nessuno, al di là dell'ambasciatore. Sono già previsto di partire prima, quindi non è che sono partiti per motivi di sicurezza o altro. In questo senso insomma non è assolutamente, posso dire che non è una situazione in cui gli internazionali, ma non solo gli italiani, sono in pericolo. Certo. Non c'è uno stato di sicurezza tale che possa mettere in pericolo la nostra presenza qui. Ecco, un'ultima domanda, viste anche le notizie con cui abbiamo anticipato questo collegamento con Tegucigalpa, ma c'è una sensazione, è palpabile la sensazione che siamo a una svolta, che le cose stiano per cambiare nelle prossime ore, si percepisce in qualche modo? Guardi, non lo so, io sono qui da un po' di tempo, però c'è un grande c'è un grande punto interrogativo, che questo paese sfugge a qualsiasi quadro di riferimento e quindi è praticamente impossibile fare anche delle previsioni a breve termine. Io pensavo che la settimana cruciale poteva essere la settimana scorsa, anche a livello di rinforzare il movimento prozelaio, o comunque insomma il movimento Vicelletti, e in realtà non lo è stato. Si vive un po' una situazione di stand-by perenne. Certezza, certo. È come se si stesse, non dico permanentemente, però aspettando un po' la finestra per vedere quello che succede. E purtroppo anche dopo la dichiarazione di San José di ieri, e quindi la in qualche modo so che la commissione di Zelaya così ha dichiarato il fallimento, certo. Da parte del governo di Micheletti non ha dichiarato alcuna chiusura, anzi ha detto, dice, verificheremo insomma all'interno del nostro paese, coinvolgendo i poteri istituzionali, per capire se accettare o meno i punti così come delineati da Oscar Arias, sapendo, certo, perfettamente anche che non ci sono state grandi variazioni rispetto a due settimane fa. Qui purtroppo c'è un punto fondamentale in cui le due parti sono in netta antitesi, quindi il ritorno di Zelaya, e Micheletti chiaramente, certo, non ha alcuna intenzione di accettare questo, certo, ritorno. Certo. Quindi niente, siamo un po' così, siamo un po' alla finestra, sarà l'ennesima settimana, l'ennesimo weekend, aspettando, certo, che succeda qualcosa, sperando sempre che insomma che non succeda certo, qualcosa di grave, questo è quello che io mi auguro, insomma, per questo tutti, popolo, e ci auguriamo tutti in realtà, penso. Ce l'auguriamo tutti, ti ringraziamo per questo collegamento da Tegucigalpa. E appunto Zelaya ha annunciato imminente, addirittura nelle prossime ore, domani dovrebbe essere il fatidico giorno del rientro, varcherà le frontiere del suo paese, da quel momento in poi appunto si è un po' in una navigazione a vista, la seguiremo naturalmente per quanto possiamo per raccontarvela anche attraverso collegamenti come quello che abbiamo appena effettuato. I'm all alone, this is a holiday, some bloody holiday, my friends have gone away. They're of the temporary sort, I think I will be better without, as long as you let me out, to taste the air beside the river. I pick the soundtrack with immaculate care, such a lot rests upon it, my life upon a song. You don't know how much I need, musician, please take. Comunque è interessante avere i pareri, per quanto siano improntati alla prudenza, anche al rispetto di una realtà così diversa come quelle che abbiamo ascoltato dall'italiano che dall'interno dell'Honduras, da Tegucigalpa, ci ha raccontato l'atmosfera che si respira in questo momento nel piccolo stato centroamericano, in attesa un po' di questo passo del gigante, no? Il rientro del presidente estromesso, la richiesta, la pretesa di un potere che non gli viene più riconosciuto. Naturalmente poi i giganti, soprattutto il gigante che governa quell'area del mondo, gli Stati Uniti, stanno alla finestra a vedere se e quando sarà necessario un intervento, che sicuramente non si augura in un momento come questo. Chiudiamo però su toni e su argomenti diversi, perché come promesso e come sanno bene gli ultra, no, della nostra trasmissione, c'è una pendenza con l'eroe per antonomasia di Jefferson, che si chiama Paolo, ha 36 anni, è veneziano, un giorno è andato in vacanza in Cina e praticamente non è mai più tornato, ha trovato l'amore, Xiao Shuang, una ragazza bella ma un po' così, un po' leggera, un po' strana, con la quale ha vissuto vissuto anche dei bei problemi, ma anche una formidabile storia d'amore che lo ha convinto a cambiare completamente vita. Ieri ci ha raccontato gli aggiornamenti sulla sua situazione di italiano in Cina sotto l'aspetto del lavoro, mi sembra novità scarsine, rispetto all'Eclissi, dove ci è piaciuto moltissimo il suo atteggiamento di totale proprio distacco, indolente e apatico e molto italiano. Si sveglia tardi, quindi l'Eclissi o per favore aspetta un po' ad arrivare quando Paolo scende dal letto, oppure mi dispiace ma non c'è per nessuno, insomma, in sostanza non l'ha vista. Oggi parliamo d'amore, che per lui è sempre la spina ma anche la rosa di questa sua grande avventura, e sentiamo un po' come vanno le cose. Amore e poi il solito visto, quello che gli danno, non gli danno, glielo fanno pagare, glielo fanno penare. Sentite. Prossimo 18 agosto mi scade il visto e questa volta devo per forza uscire dal paese, perché la legge vuole, una legge che è un po' assurda, ma questa è che non, io l'ultima entrata nel paese è risale al 19 agosto scorso da Hong Kong, e quindi la legge vuole che non posso stare più di un anno qui senza uscire dal paese, cioè posso stare al massimo un anno senza uscire, dopodiché devo per forza uscire e rientrare, e quindi in questa maniera mi è possibile estendere per almeno un altro anno il visto, che può essere di 3 mesi, 6 mesi, ma posso tirarla avanti ancora. Quindi questo potrebbe anche voler dire che forse è la volta buona di un tuo viaggio in Italia? No, il viaggio in Italia purtroppo costa, no, a Hong Kong il primo agosto ho fatto verificare in agenzia il biglietto più economico, tra l'altro il giorno del mio compleanno, e quindi probabilmente il primo agosto andrò a Hong Kong, resterò lì giusto il tempo di arrivare in aeroporto e star lì qualche ora e ritornare, e in maniera tale da avere sul passaporto il timbro che sono uscito, dopodiché mi sarà possibile, spero, senza tante storie, perché almeno questo è quello che mi hanno confermato qui a Shanghai, che sembra la situazione riguardo ai visti sembra essersi un po' affievolita, cioè più allentate le cinghie del governo, insomma, in materia, e quindi dovrebbe essere possibile senza problemi estendere il visto per altri 6 mesi o un anno. Cinghie del governo, no? Vi ricordate Paolo in forte difficoltà l'anno scorso sotto Olimpiadi, quando entrare e uscire dalla Cina era diventata veramente una questione di Stato, una storia tutt'altro che semplice da risolvere. Lui si industriava appunto con viaggi in paesi limitrofi, anche con pagamenti piuttosto salati per entrare in possesso del visto che gli permettesse di restare ancora qualche mese in Cina. Adesso la situazione dovrebbe migliorare da questo punto di vista, perché poi, ripetiamo, il centro del problema è un rapporto sentimentale profondo, appassionato, che Paolo continua a vivere e che forse in fondo, no, a questo viale così con luci color pastello potrebbe avere almeno la parola magica, no, il matrimonio. Il matrimonio passa per il lavoro, se prima non mi stabilizzo dal punto di vista lavorativo, ovviamente non si possono fare questi discorsi, quindi motivo in più questo, assieme a quello del viaggio in Italia per trovare il prima possibile il lavoro, insomma, quindi per il momento non ne parliamo. L'ultima volta non vi ho aggiornato, no, che non vi ho detto che ho incontrato i genitori. Ah no, questa è una notizia, raccontaci i dettagli, l'incontro con i genitori della tua fidanzata, questo è importantissimo. No, sentiamo. Sì, sono stati un po' costretti a venire a Shanghai per qualche problemino legato alla figlia, e quindi sono venuti qui anche il fratello in due occasioni, nel giro di 8 giorni, prima la mamma col fratello, quindi ho conosciuto mamma e fratello, e poi la seconda volta, la settimana dopo, mamma e papà col nipotino, il figlio del fratello. E com'è andata la cosa con i genitori, con la famiglia della tua fidanzata? Ma no, è andata bene, insomma, niente di particolare, insomma, non c'è. Il problema era che non ovviamente, non parlando io cinese, non parlando loro inglese o italiano, non c'era modo di, granché modo di comunicare. Questo mi ha un po' nella situazione. Quindi non vi siete proprio parlati, perché c'è stata una incomunicabilità di fondo. Avevo preparato qualche fogliettino, così, qualche riga buttata lì, giusto per dire piacere di conoscervi, purtroppo non parlo cinese, mi dispiace, giusto per dire queste cose qua, per fargliele dire, insomma, questo è quanto sono riuscito a preparare, oltre a questo non sono potuto andare. Bene, la saga continua, e personaggi, il numero di personaggi si ingrossa, e ringraziamo naturalmente Paolo della sincerità, anche dell'entusiasmo, che a modo suo riversa nella propria avventura. Questo è Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Fabio Cantadori a Milano, la mail è jefferson2radio24.it, le pagine Facebook sono redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, replica a mezzanotte, diretta dopo le 4 qui su Radio 24. State tutti bene.